Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eh sì, noi le promesse le manteniamo, manteniamo sempre le promesse qui al Soundcheck di Radio 24. Buona domenica a tutti voi da Gegè Telesforo e come sempre buona domenica a Francesco Tromba. Ciao a tutti. Avevamo annunciato nella puntata di ieri, quella di quest'oggi, mio caro Francesco, è la numero 405. Pensa tu, ne abbiamo fatte tantissime. Ma pensa quanta musica abbiamo proposto. È sempre fantastica. Ah, che meraviglia. Bene, avevamo promesso ieri che la puntata di questa sera l'avremmo dedicata a uno dei giovani artisti di riferimento del sound californiano, un signore chiamato Anderson .Paak. Questo è il suo secondo nome d'arte, no? Perché il nome vero di Anderson .Paak qual è? Il vero nome di Anderson .Paak in realtà è Brandon .Paak Anderson. Poi realizzò il suo primo disco come Breezy Lovejoy. Lovejoy, infatti, sì, no, mi sa che prima ha fatto un EP e poi il secondo album, sempre del 2012, si intitolava Lovejoy, così come il suo soprannome. La cosa sconvolgente di Anderson .Paak non è soltanto il fatto che ha creato la sua carriera e la sua formazione artistica in 5 anni, se consideriamo che le prime registrazioni discografiche le ha fatte sotto forma di demo nel 2012 e siamo nel 2017, quindi sì. in cinque anni. Ha avuto anche la nomination al Grammy Award. Sì, è arrivato appunto, è partito dal nulla, potremmo dire, perché lui appunto era per strada e praticamente la sua storia è la storia tipica del sogno americano, potremmo dire, perché lui, figlio di un americano e di una sudcoreana, si ritrova a un certo punto a lavorare in una farm di marijuana a Santa Barbara in California e da un giorno all'altro, con un figlio a carico, si ritrova senza lavoro, quindi si ritrova praticamente per strada senza un dollaro da spendere. Era il 2011, quindi l'anno prima della realizzazione del suo primo disco come Breezy Lovejoy, e quindi ha vissuto proprio come homeless. E poi naturalmente il suo talento, ma a quel punto anche la sua energia e la sua positività, lo hanno portato in soli 5 anni a diventare Anderson .Paak, cioè un vero e proprio fenomeno in tutto il mondo, una delle nuove realtà del New Soul e del Contemporary R&B, un musicista di talento senz'altro, una voce fantastica. Perché una voce fantastica? Perché ha il suo sound, quello che noi cantanti definiamo the gift, ovvero il dono. Ha un timbro che è unico e riconoscibile, è quello il marchio di fabbrica di Anderson .Paak, che poi è anche un compositore, arrangiatore, un bravissimo batterista. La cosa sconvolgente per me è che questo signore è nato nel 1986. Quando io facevo doc in televisione, questo signore aveva 1 anno. E questa è la cosa che mi sconvolge, mi sorprende. Eh sì, giovanissimo, e ha già fatto comunque tantissimo, ha fatto già tantissima roba, ha collaborato con grandissimi musicisti comunque, perché è arrivato a lavorare anche con gli A Tribe Called Quest, che in America sono un punto di riferimento per quanto riguarda il genere hip hop. Tra l'altro possiamo dire che è un artista completo, perché oltre ad essere un grande musicista, guardando i video, ha avuto anche un'evoluzione a livello quasi di attore, perché guardavo di recente anche le sue apparizioni al Jimmy Fallon Show. Lui praticamente non solo canta una canzone, ma la interpreta nel vero senso della parola. È anche molto bello da vedere come si veste, come si muove sul palco. Ecco, non si scherza negli Stati Uniti quando viene fuori un artista, allora dobbiamo, ci crediamo, no? Eh sì, noi ci crediamo tantissimo. Noi ci crediamo tantissimo e poi crediamo tantissimo proprio nell'arte e nel talento di Anderson .Paak, e vi presentiamo subito forse uno dei brani più carini presenti nella sua pubblicazione di esordio, come diceva Francesco, intitolata Lovejoy. Il brano si intitola DTB, Anderson .Paak al Soundcheck di Radio 24. dall'EP di esordio di Anderson .Paak intitolato Lovejoy. Questo era DTB, un EP che insomma diede la possibilità a questo artista di farsi notare nell'ambiente, ambiente che ha frequentato incessantemente in quel periodo, partecipando come guest o special guest a varie produzioni, tant'è vero che praticamente il giovane Anderson .Paak è riuscito poi col tempo a mettere su una piccola società di produzione e uno studio di registrazione, no? Adesso sì, proprio da un anno. Sì, leggevo nell'intervista che gli ha fatto Flying Lotus che lui praticamente fino alla fine del 2016 non ha mai avuto un suo studio di proprietà, quindi tutto quello che ha creato l'ha creato quasi on the road, potremmo dire, nel senso che andava di qua e di là facendosi prestare gli studi dagli amici o prendendoli in affitto, dicendogli appunto guarda questo studio è libero da quest'ora a quest'ora, vuoi venire? E lui andava lì con la sua band e provava qualcosa e magari appunto riusciva a registrare dei pezzi dei suoi dischi, quindi non ha mai avuto un luogo fisico dove pensare alla sua musica, potremmo dire. E quello che sta succedendo oggi è che gran parte delle registrazioni realizzate in quel periodo, quindi 2012, 2013, 2014, adesso vengono pubblicate dagli artisti e dai producer che avevano lavorato in quel periodo magari soltanto per realizzare delle demo. E infatti ci ritroviamo questa bellissima versione di Hold the Line con Anderson .Paak prodotta da Vicky Farwell Nguyen, e quindi ve la facciamo ascoltare subito qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. A dire il vero, Anderson .Paak, noi Francesco l'abbiamo conosciuto ascoltando questo brano prodotto da Blended Babies intitolato Make It Work con la partecipazione di Asher Roth, brano che ci sorprese proprio per il timbro del vocalist, no? Che poi abbiamo scoperto essere Anderson .Paak, musicista di riferimento dell'area californiana, anzi lui proprio si muove in una striscia di lungomare, sì, una striscia di terra feconda, quella che va da Venice Beach fino a Malibu. E infatti il titolo degli ultimi suoi due dischi era il primo Venice e il secondo Malibu, quello che l'ha portato al successo definitivo. E questa è una delle cose che a me piace di Anderson .Paak. Si sente e viene fuori dalle sue creazioni tutto l'ambiente solare di quel movimento culturale che è residente fra Venice Beach e Malibu. Sì, ambiente che lui ha frequentato da quando praticamente faceva il tuttofare di Shafiq Hussein, che è un producer e un rapper molto famoso negli Stati Uniti. Lui praticamente gli faceva da autista, da chef, gli faceva anche, gli girava la marijuana praticamente, sì, la medical marijuana che sfumavano, gli faceva anche da regista dei video, montatore, faceva qualsiasi cosa, era il tutto fare di Shafiq Hussein. E in quel periodo lui dice appunto che ha imparato tantissimo da questo musicista, che poi è anche uno che ha creato un collettivo che si chiama Sarag, che appunto è una casa per molti musicisti lì negli Stati Uniti, nella zona di Los Angeles. Quindi il suono di Anderson .Paak si forma in California, e noi spesso lo diciamo, siamo quello che mangiamo e quindi anche quello che abbiamo ascoltato, e la musica che comunque ha ascoltato Anderson .Paak da ragazzino era quella dei suoi genitori, che frequentavano il gospel nella chiesa. Infatti credo che musicalmente si sia formato come batterista suonando proprio in chiesa. Eh sì, proprio lì inizia le sue prime esperienze musicali, che però poi vanno avanti appunto riuscendo a incontrare tantissimi musicisti lungo la sua strada, come Schoolboy Q, Talib Kweli, che piano piano sono sono diventati anche i suoi compagni di vita, potremmo dire. Tra l'altro evidenziamo come il 2016 sia stato un anno particolare per Anderson .Paak, perché appunto parte tutto dalla produzione e realizzazione di Malibu, l'album che l'ha portato al successo. In quel 2016 non si è fermato praticamente mai, era in tutto quello che di bello ci stava tra l'hip hop e l'R&B che veniva fuori nel 2016. Fra i miei brani preferiti di Malibu c'è proprio Room in Here, Anderson .Paak al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E qui invece proprio un incontro ai vertici delle sonorità contemporanee, e l'incontro fra Anderson .Paak con il brano The Waters, sempre incluso in questa splendida produzione intitolata Malibu, l'ultima per questo artista californiano, che incontra invece il rapper vocalist di Chicago, BJ The Chicago Kid, che invece ai Grammy Award è stato nominato anche lui, anche a lui, lui non sì. L'ha preso, no? L'unico no, che l'ha preso è Chance the Rapper. Sì, esatto. Comunque BJ di Chicago Kid insieme a Chance the Rapper oggi è una delle star di riferimento dell'hip hop e del rap e del new soul tipico dell'Illinois. Sì, anche loro, diciamo, anche il BJ di Chicago Kid è uno che ha superato da poco i 30 anni, e quindi anche in lui c'è molta speranza per il futuro, per le sue produzioni future. Allora, io spero di riuscire a vedere prestissimo dal vivo Anderson .Paak, che sta girando il mondo perché e si sta facendo notare, adesso si sta facendo conoscere, perché è entrato nel team di produzione, o meglio nel management di Bruno Mars. Sì, lui praticamente fa le aperture dei concerti di Bruno Mars, che ovviamente suona in tutto il mondo. In tutto il mondo. Sì. Ecco, e abbiamo notato che Bruno Mars avrà adesso un calendario di concerti infinito, praticamente partito da qualche settimana e si fermerà fra qualche anno. Probabilmente eh? Sì. È perché così fanno, quando mettono su una produzione di quel tipo bisogna poi ammortizzare i costi, e già ci vogliono un bel numero di concerti. La cosa che ho saputo è che il concerto di Bruno Mars in questo momento è anche uno dei più costosi al mondo. Eh sì, perché immagino ci saranno comunque dei costumi, delle scenografie, insomma è un fantastico. Vero e proprio show tipico americano. E immaginate uno show di questo tipo aperto da uno dei giovani promettenti come Anderson .Paak, che già basta comunque. Eh sì, è quasi meglio l'apertura del concerto, una cosa meglio dell'altra. Però diciamo. Succede così, cioè negli Stati Uniti si considerano questi valori. Io andai a Los Angeles a vedere il concerto di D'Angelo, che faceva l'apertura a Mary J. Blige. Pensa tu. E infatti poi con Mary J. Blige, lo devo dire, un po' mi annoiai, perché il concerto era più patinato. Invece tu sai che a me piacciono un po', a me piace la verità, mi piace proprio vedere e sentire l'afrore che viene sprigionato dal palco. Devo dire che anche a me piace molto di più rispetto a quello patinato. Allora noi vi salutiamo, chiudiamo qui l'appuntamento dedicato a Anderson .Paak, che torna qui con Schoolboy in Am I Wrong. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo a partire dalle 19:15. Salutandovi però direi, caro Francesco, di dare appuntamento con i concerti di Anderson .Paak in Italia. Quanti ne farà? Sì, allora sarà in Italia dal 29 di maggio, suonerà a Verona al Teatro Romano, però mi sa che i biglietti sono praticamente finiti. Poi suonerà all'Unipol Arena di Bologna il 12 di giugno e il 15 di giugno al Forum di Milano. Sempre per aprire i concerti di Bruno Mars? No, in alcuni casi da solo con i Free Nationals, senza Bruno Mars. Bene, viva Anderson .Paak, viva Francesco Tromba, grazie a tutti voi per l'attenzione che avete dedicato al nostro soundcheck. Buona settimana e buona musica da Giorgia Telespo.